Domenica 16 ottobre al Circolo Berneri ci sarà la proiezione del documentario Fly So Far e io sono qui per parlarne con Elisa Delle Mueres. Ciao Elisa, buon pomeriggio. Ciao. Allora Elisa, innanzitutto ti va di spiegarci un po' che cosa racconta questo film documentario appunto dal titolo Fly So Far? Sì, allora questo documentario racconta la storia di una donna di nome Teodora, ingiustamente incarcerata appunto con la accusa di aver abortito e appunto condannata a qualcosa come 40 anni di carcere. Questa donna riesce poi ad uscire appunto dal carcere grazie anche al supporto del movimento femminista salvadoregno, e una volta uscita dal carcere si fa un po' portavoce delle istanze, delle lotte, delle tante altre donne appunto condannate con accuse legate ad aver interrotto appunto la gravidanza e ancora in carcere. Quindi appunto è una storia molto molto interessante e che attraversa appunto l'esperienza di una donna in particolare, racconta un po' quella che è una delle situazioni più complesse, più problematiche rispetto all'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, che è appunto quella del Salvador. Esatto, non parla insomma dell'Italia nello specifico, ma questo documentario si inserisce comunque nella serie di eventi che ci accompagnavano verso e anche oltre appunto il 28 settembre, che è stata la giornata internazionale dell'aborto libero e sicuro. Ti volevo chiedere che cosa possiamo, come dire, imparare e capire da questo film, da questo documentario, anche se appunto non riguarda strettamente l'Italia e quello che ci circonda, ma ci può essere comunque molto utile. Beh, innanzitutto appunto la giornata internazionale del 28 settembre affonda le sue radici proprio nella lotta del movimento femminista dell'America Latina e del Caribe, no? Nascendo come la giornata per la depenalizzazione e la legalizzazione dell'aborto. E quindi appunto anche proprio per questo motivo ci sembrava particolarmente interessante contribuire a dar voce appunto a questa situazione che è particolarmente complessa. Ma allo stesso tempo pensiamo che sia fondamentale in generale tenere molto molto alta l'attenzione a livello internazionale anche, no? Sulla situazione dell'accesso all'aborto, perché comunque la cosa fondamentale che secondo me ci può insegnare appunto, ci racconta questo film, è che molto spesso appunto i diritti, anche quando sono considerati in qualche modo acquisiti, non lo sono, perché ad esempio nel Salvador appunto questa penalizzazione, criminalizzazione assoluta dell'aborto non c'è sempre stata, ma è stata appunto attuata grazie a una modifica del codice penale a partire dal 1997. Quindi appunto in primo luogo ci insegna quanto sia importante mantenere sempre alta la guardia anche proprio da un punto di vista transfemminista sulla situazione dell'accesso all'aborto e quanto sia importante appunto mantenerla alta a livello internazionale, no? Certo, assolutamente. Poi tra l'altro fra rete anche infatti un dibattito che affianca appunto alla proiezione, e quindi immagino che parlerete anche di questo e di molto altro, e ci sarà anche un pranzo sociale. Esatto. Ci vediamo a luna appunto con il pranzo sociale, poi vediamo tutti insieme il documentario e al seguito del quale ci sarà questo dibattito appunto per parlare un pochino della situazione del Salvador in particolare, ma anche dei tanti spunti che sicuramente risuoneranno anche per la situazione che stiamo vivendo appunto in Italia e in generale per l'accesso all'aborto. Perfetto Elisa, io ti ringrazio per averci raccontato l'evento e direi che insomma ci vediamo domenica 16 ottobre al Circolo Berneri per la proiezione del documentario Fly So Far. Grazie mille a te.